Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12 e 17 minuti, nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi è giovedì, parliamo di mercato immobiliare, che cosa è successo negli ultimi mesi, che cosa forse succederà, chissà se sapremo anche darvi qualche indicazione sul futuro. Comunque analizzeremo l'andamento del mercato, lo faremo con degli ospiti. In studio con me c'è Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBH United Business Holding. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a tutti. E al telefono invece, collegato telefonicamente, il collega del Sole 24 Ore Enrico Bronzo. Buongiorno Enrico. Buongiorno a tutti. Stiamo cercando di metterci in contatto anche con Gualtiero Tamburini, presidente di Nomisma e Asso Immobiliare, ma vedremo, perché questa mattina aveva una mattinata piuttosto impegnativa, quindi vedremo poi se nel corso della trasmissione riuscirà a collegarsi con noi. 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Come di consueto, però, prima di addentrarci nel tema di oggi, una rapida panoramica su quanto sta accadendo sui mercati. Lo dicevamo già nel corso del giornale radio, ieri è stata una giornata positiva per quanto riguarda le borse del vecchio continente, che sembravano aver ben digerito il piano messo a punto dall'Irlanda, la manovra per rientrare dal deficit, ovviamente diluito nel tempo, e digerito anche l'aiuto che verrà all'Irlanda dal Fondo Monetario e dall'Europa. Oggi le borse europee si sono risvegliate molto più caute. Parigi sta cedendo uno 0,19%, Francoforte guadagna uno 0,20%, Londra arretra leggermente, guadagna uno 0,28%, ma resta comunque la migliore in Europa. C'è da dire che l'Asia, in particolare Tokyo, aveva chiuso in progresso di mezzo punto percentuale, e da ricordare che oggi resterà chiusa Wall Street per la festa del ringraziamento. Come sempre, in Europa, quando le borse sono deboli o vanno male, Milano fa peggio, perché in questo caso pesano molto i titoli finanziari e quelli a maggiore capitalizzazione, vedremo più nel dettaglio. E così il FTSE MIB cede uno 0,96%, il FTSE All Share cede uno 0,87%. Sul listino principale, l'Ottomatica, il titolo peggiore, cede il 4,34%, era arrivata a cedere quasi 6 punti percentuali, in discrezioni su un imminente prestito obbligazionario da 500 milioni di euro a scadenza febbraio 2018, che potrebbe essere collocato da Credit Suisse, JP Morgan, Mediobanca, Société Générale e UniCredit. Ma c'è anche da dire che comunque sull'Automatica è da più giorni che ci sono pressioni, in maniera più decisa dal 16 novembre, giorno in cui il gruppo ha comunicato i conti e il nuovo piano di rifinanziamento. Da quella data l'Automatica ha ceduto intorno all'8%. Giù anche Fondiaria Sai, anche su questo titolo pressioni da qualche giorno a questa parte. Fitch ha messo sotto osservazione il rating, e poi ci sono delle verifiche in corso da parte della Consob, cede il 2,63%. Giù in generale il comparto bancario, Mediolanum cede il 2,43%, Mediobanca il 2,39%, UbiBanca cede l'1,91%, giù anche Monte dei Paschi di Siena che cede l'1,77%, Intesa cede l'1,3% circa, UniCredit l'1,4%. Pochissimi titoli che riescono a guadagnare, il migliore è Prismian, lo è già da qualche ora, viaggia in controtendenza a Piazza Affari. E questo perché le azioni sono premiate dagli acquisti, appunto, per la seconda seduta consecutiva, dopo che il gruppo francese Nexans ieri ha comunicato di aver rinunciato alla gara per l'acquisto della concorrente olandese Draka. Draka, lo sappiamo, lo abbiamo raccontato anche nel corso della settimana, è nel mirino di Prismian e della cinese Xinmao. Diciamo che Prismian ha fatto un'offerta raccomandata dal board di Draka a 17,20 euro per azione, poi è arrivata anche la cinese che ha offerto 20,5 euro per azione, tutti in contanti tra l'altro. Azimut guadagna l'1,22%, Tenaris lo 0,8%, Saipem lo 0,7%, CIR guadagna lo 0,34%. E c'è da dire che sul listino generale, sul completo, Stanno andando decisamente molto bene le azioni di management e capitali all'indomani dell'OPA obbligatoria che lancerà De Benedetti. De Benedetti ieri ha rilevato da Tamburi il 16,89% del capitale di management e capitali, salendo così al 44,42% e facendo quindi scattare poi l'OPA obbligatoria. Per quel che riguarda i cambi, euro sempre piuttosto debole sul dollaro, 1,3316 il cambio in questo istante. Noi chiudiamo così la parentesi dedicata ai mercati, andiamo verso il nostro tema, che è quello appunto del mercato immobiliare, e come sempre lo facciamo con la nostra scheda. Nessuna ripresa significativa, ma iniziano ad intravedersi i primi segnali di stabilizzazione. È questa la fotografia del mercato immobiliare italiano nel 2010, scattata dall'ultimo rapporto Nomisma. Il mattone italiano dunque si sta lentamente stabilizzando dopo le flessioni che hanno cominciato ad affacciarsi nel 2008 e che hanno raggiunto il culmine nel 2009. In particolare, per l'anno in corso si stima che le compravendite di abitazioni possano toccare quota 620.000, il 2% in più circa rispetto ai minimi raggiunti l'anno scorso. In ripresa, sì, anche se si tratta di valori senza dubbio molto distanti dal picco delle 845.000 vendite raggiunte nel 2006. Il riavvio delle transazioni non avviene tuttavia in maniera diffusa e generalizzata. Le città infatti crescono in modo più sostenuto, più 6,7%, rispetto ai mercati di provincia, che rimangono invece sui livelli deboli dell'anno scorso. A livello territoriale è il nord che tiene di più 2,6%, seguito dal centro, più 1%, mentre al sud si registra un vero e proprio crollo delle compravendite, meno 13,8%. Un segnale dunque che la propensione verso l'investimento nel mattone resta tuttavia elevata, perché è considerato ideale per il 58% delle famiglie italiane. Le 12.24 e come vi avevamo detto in apertura, avevamo cercato di contattare Gualtiero Tamburini, presidente di Nomis, ma siamo riusciti, può rimanere con noi solo qualche minuto, intanto lo saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie di avermi chiamato. E allora, visto che può dedicarci solo qualche minuto, io darei subito la parola a lei, visto che ieri avete presentato il terzo rapporto sul mercato immobiliare per il 2010. Timidi segnali di ripresa, li confermiamo? Li confermiamo e diciamo in certi casi sono anche addirittura più che timidi. D'altronde la scheda che ho sentito ora sì, mi sembra che riprenda perfettamente il senso del rapporto. Abbiamo diciamo un mercato che è un po' dicotomico, cioè a macchie di leopardo, là dove l'economia va meglio il mercato va meglio, e quindi nelle grandi città, soprattutto del nord, il mercato sta riprendendo in modo veramente sensibile dal punto di vista delle quantità, mentre nelle zone con l'economia meno forte del paese il mercato da sempre dal punto di vista quantitativo arranca. Sui prezzi, che diciamo sono un punto di riferimento sempre molto importante sia per i piccoli che per i grandi investitori, si conferma una delle caratteristiche storiche del nostro mercato immobiliare, cioè che i prezzi italiani tengono, hanno subito anch'essi una piccola flessione in questi due anni e mezzo che in tutto il mondo sono stati molto negativi, ma a differenza di quello che è successo in Spagna, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove la riduzione dei prezzi è stata a due cifre del 15%, 20%, 30%, sì, anche in Italia non arriviamo al 10%, quindi il valore si è mantenuto. E il punto diciamo decisivo di questa analisi che abbiamo presentato ieri è che l'arretramento che c'è stato appunto in questi due anni e mezzo si è fermato. L'aspettativa è che si possa tenere una stabilizzazione in attesa che l'Italia si agganci veramente alla ripresa economica mondiale che c'è e quindi torni ad alimentare il mercato immobiliare con una domanda più forte di quella attuale. C'è molto denaro, sì, che aspetta di poter essere investito, bisogna dare delle certezze oggi le certezze sono ancora molto deboli. Senta, Presidente, l'ultima domanda poi la lascio andare. Comunque voi nel rapporto ponete molto l'accento appunto sul fatto che il comparto è stato colpito più nei volumi che nei valori, come giustamente diceva anche lei, e che rispetto sì. al, ovviamente al periodo pre-crisi sicuramente c'è stata una perdita molto ingente. Io però a questo punto le chiedo, secondo lei è possibile in futuro tornare a quello che era prima, che se vogliamo è un po', per alcuni è considerato un po' quello che è successo in questi anni un punto di non ritorno, cioè non si tornerà mai più indietro a quelli che erano i volumi, i valori ante crisi 2008, diciamo così. Guardi, non posso pensare a un quadro di questo tipo, perché vorrebbe dire che l'intero paese non tornerà ai livelli di reddito e di consumi pre-crisi. Invece, diciamo, la nostra storia è una storia di crescita e continueremo a crescere assieme agli altri paesi europei. Se cresce l'economia, se imboccheremo di nuovo la strada dello sviluppo economico, e non c'è motivo per ritenere che questo non debba succedere, il mercato immobiliare tornerà certamente a quei livelli e anche più su. C'è un arretrato di domanda enorme di immobili di qualità, c'è un problema di tornare a fare investire investitori piccoli e grandi. Oggi il cavallo non beve, oggi l'investitore aspetta e diciamo, perché non ha davanti a sé delle prospettive di un'economia che tira, che crea occupazione, che crea reddito. Allora, perché questo accada naturalmente va accompagnato, servono per esempio delle politiche economiche che aiutino di nuovo l'investimento. E invece magari ci sono molti segnali che vanno un po' in controtendenza. Se guardiamo al sì. di là del nostro naso e diciamo prendiamo quindi le distanze su un anno, due anni rispetto ad ora, certamente il mercato immobiliare, il mercato delle costruzioni tornerà a svilupparsi, perché è il requisito fondamentale perché un paese possa continuare a prosperare. La ringrazio, Presidente, grazie a Gualtiero Tamburini, Presidente di Nomisma e di Asso Immobiliare, per essere stato con noi. Io chiedo ancora un po' di pazienza ai nostri ospiti, perché noi ci dobbiamo fermare e torniamo tra pochissimo. Le 12:34 minuti, ben ritrovati, sempre in compagnia di Salva Danaio. Stiamo parlando di mercato immobiliare, un mercato immobiliare che riprende, o almeno a quanto abbiamo sentito dal presidente Tamburini, presidente di Nomisma, ci sono ben più, ha parlato lui di ben più che segnali, timidi segnali di ripresa. Allora io volevo chiedere ad Alessandro Ghisolfi, che è appunto responsabile dell'ufficio studi di UBH, United Business Holding, se è d'accordo, se sono più che timidi segnali. Ma direi di sì, però giustamente parlando di mercati diversi, perché sappiamo benissimo che non è che un indicatore unico vada bene poi per tutta l'Italia e per tutto il paese. Secondo me è giusto dire, ed è vero, perché lo rileviamo anche noi tramite le nostre reti, franchising, Grimaldi e Professione Casa, che nelle grandi città il mercato sicuramente rispetto all'anno scorso ha accelerato un po' di più, ci sono più scambi, ci sono più trattative, e questo soprattutto perché comunque abbiamo registrato una maggior propensione da parte del venditore a trattare sul prezzo sul di vendita, prezzo. Che è la cosa fondamentale. Quindi c'è stato un po' più di sconto, diciamo, mettiamola in termini molto pratici. C'è stato un po' più di sconto. Poi secondo me il dato invece più confortante è il fatto di vedere, e mi riferisco ai dati dell'Agenzia del Territorio, che ci sono, e qui sì, sono timidi perché parliamo di qualche 0,08, più 1,4, più 1,8 di compravendite in più rispetto appunto all'anno scorso nei comuni della provincia, che in questi ultimi due anni sono proprio quelli che hanno sofferto di maggiormente più. Perché sappiamo che da una parte si è costruito molto e quindi c'è un'offerta molto alta, e dall'altra una bella fetta di potenziali acquirenti è scomparsa dal mercato, e quindi i giovani, prima casa, i lavoratori extracomunitari eccetera, cioè tutti coloro che accedevano al mercato grazie al mutuo al 100%, finito la possibilità, il canale del mutuo al 100%, sì. Il mercato chiaramente si era fermato. Ecco, lì arrivano anche lì dei segnali invece confortanti, e anche lì comunque sono segnali che derivano fondamentalmente dalla revisione del prezzo, quindi dal fatto che comunque anche chi ha costruito, chi ha messo in offerta sul mercato nuove abitazioni che magari non riusciva a vendere da un anno e mezzo, oggi appunto fa sconti del 10, del 15% e a volte anche del 20%. Quindi questo ha dato un po' più di movimento, certo, al mercato. Certo, di slancio al mercato. Prima di dare la parola ai nostri ascoltatori che ci hanno contattato all'800240024, io vorrei chiamare in causa anche il collega Enrico Bronzo, che nonostante sia a Londra ha comunque seguito il rapporto, e allora lui vorrei chiedere invece quali secondo te, Enrico, sono i punti di maggiore criticità che sono emersi dal rapporto Nomisma, perché insomma non è tutto rose e fiori. Sì, come ha detto precedentemente Tamburini e come ha detto anche adesso Ghisolfi, il dato nazionale va poi sciso in situazioni che vedono per esempio il Sud Italia diminuire il livello delle compravendite del 14%, e credo che poi anche all'interno delle regioni meridionali ci siano differenze, sì, fra grandi città e città di provincia, perché nella tabella di Nomisma sui tempi medi di vendita Catania e Palermo sono le città fra le grandi città italiane, sì, dove si vende prima un'abitazione con solo 4 mesi di tempo, sì, per cedere l'immobile, e contro una media nazionale di 180 giorni, 6 mesi. Sì. E in effetti il nord sta ripartendo. Io credo, pensando alle grandi città, che ci siano, e lo dico velocemente, delle grandi novità dal punto di vista dell'architettura, della localizzazione, con le grandi riqualificazioni anche in aree centrali e semicentrali, poi c'è il discorso legato al consumo energetico. Dico questo perché in città come Milano e Roma stanno costruendo delle torri che secondo me rappresentano una grande novità sul mercato, perché c'è la novità della vista. Queste torri di anche 30 piani, o partendo anche dai 10 piani, offriranno viste, nel caso di Milano vista Duomo, e secondo me sempre per quel settore di mercato che sta tenendo meglio di altri rappresenterà un incentivo per il mercato, perché verrà fuori la possibilità di realizzare abitazioni personalizzate con una bella vista, dove la bolletta energetica sarà praticamente uguale a zero, quindi anche un risparmio anno dopo anno, e quindi questo è una speranza per il mercato. Per il resto sul sud, anche noi sul sito online del Sole 24 Ore ci ripromettiamo di fare dei focus, perché la situazione è veramente abbastanza variegata. Sì, sì, è veramente anche, diciamo, bloccata, ecco, da un punto di vista immobiliare. Francesco da Treviso, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io sono un agente immobiliare dal 1972. Volevo enfatizzare il fatto che, parlando di investimenti immobiliari, sì, ancora chi investe nell'immobile ha una resa del 5% su quello che investe, è una resa media su immobili locati a supermercati, banche e comunque inquilini di questa stazza, diciamo. Investe sempre meglio che lasciare il denaro in una banca. L'immobile salva il capitale da 50 anni, io faccio questo lavoro da 40 tanto. Anni, è dimostrato che l'immobile salva il capitale, e anche se il reddito non è altissimo, sì, è sempre di più di quello che dà il denaro che dovesse essere lasciato in banca. Beh, certo, no? Sicuramente lasciarlo in banca non è che porti tanti frutti. Poi qui si aprirebbe tutta una discussione se è meglio il mattone, se è meglio investire in borsa. Comunque sì, anche noi prima ne stavamo parlando qui con Ghisolfi, del fatto che comunque il mattone ha sempre la sua attrattività. Appeal. Mm. È sempre meglio. E poi c'è molto denaro circolante, diceva anche il presidente Tamburini, che comunque c'è molta liquidità e quindi anche tanto desiderio di investire questa liquidità. Sì. Sì, è vero. Purtroppo appunto sul settore, poi perché anche l'ascoltatore appunto da operatore che opera da tanti anni sul mercato conosce bene come funzionano le cose da noi, ha fatto chiaramente riferimento a una tipologia di mercato di immobili, cioè quelli non residenziali, perché sappiamo benissimo che dal punto di vista dell'investimento a puro scopo reddituale, sì, il rendimento ottenibile dal residenziale non è certamente così interessante come può esserlo invece, certo, appunto nel affittare un edificio a una banca piuttosto che appunto uno spazio per un supermercato. Però parliamo quindi di investimenti di un certo tipo. Di un certo livello, però, certo, come giustamente diceva anche il professor Tamburini prima, oggi invece proprio questa categoria di grossi investitori non si sta muovendo sul nostro mercato, perché effettivamente quando si parla di mercato corporate, cioè di mercato di immobili di impresa, uffici piuttosto che negozi, cioè centri commerciali eccetera, facciamo sempre riferimento a due città, tre città al massimo, quindi Milano, Roma, qualche volta si parla di Bologna piuttosto che, sì, di Torino, e si parla poi di sempre i soliti attori, che sono appunto le pochissime società di investimento che stanno operando oggi sul mercato, per cui c'è un enorme invece stock di immobili a uso ufficio che sono vuoti, che sono in affitto sul, sì, mercato e che non si riescono a ricollocare. Questo sarà ed è già il grosso tema e problema da affrontare anche nelle nostre città come Milano, appunto, come Roma. Giuseppe da Napoli, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Senti, io invece io sono un agente immobiliare che esercito la professione da circa 20 anni e volevo parlare invece del problema della prima casa, perché nella nostra realtà della provincia di Napoli, noi in effetti il numero di richieste non è diminuito di molto. Sì. Cioè, il problema sta proprio del finanziamento delle banche, che come diceva giustamente l'altro ospite, che fino a qualche anno fa finanziavano il 100%, oggi non finanziano più dell'80%. A questo si aggiunge praticamente le spese che deve affrontare l'acquirente, spese notarili, spese di imposte catastali, spese di registro, per cui praticamente sono proprio queste spese che molte volte scoraggiano, diciamo così, scoraggiano l'acquisto da parte del cliente. Per non dire che proprio non se le possono permettere in certi casi. Certo, per cui io penso che un intervento dello Stato in questo senso, cioè basterebbe abbassare l'aliquota delle imposte di qualche punto, io non dico per sempre, ma per qualche anno, per far riprendere il settore, pure perché il settore immobiliare, il settore dell'edilizia è un traino un po' per tutta l'economia, cioè un indotto non indifferente, certo, per far sì che molte di queste giovani coppie acquistano, perché il grosso del mercato immobiliare comunque è la prima casa, è la prima casa chiaramente non guarda il momento della crisi economica che sta attraversando il paese, ma è un'esigenza. Certo, è una necessità. Sì, perché pure negli anni del boom che ho vissuto, chiaramente le persone che hanno acquistato la prima casa, parlo chiaramente della classe operaia, della classe del ceto medio, non è che avevano tanti di quei soldi, però chiaramente c'era la banca che finanziava il 100%. E purtroppo adesso ne hanno ancora meno. Allora, il signor Giuseppe parla anche proprio dal punto di vista diciamo delle iniziative che dovrebbe prendere la politica per aiutare, per stimolare questo settore, iniziative di cui parlava anche il presidente Tamburini. Noi ci dobbiamo fermare per qualche minuto, dobbiamo dare la linea all'informazione per chi è in viaggio, ma restate con noi. Le 12.47, allora questa è l'ultima parte di Salva Danaio, io vorrei toccare ancora due o tre argomenti e chiederei al signor Maurizio da Milano di attenderci qualche istante, perché volevo chiedere al collega Enrico Bronzo, anche l'ascoltatore di prima parlava dei mutui, di agevolazioni in qualche modo da parte dello Stato, c'è un passaggio nel rapporto di Nomisma, e aiutami Enrico, forse sono io che non sono stata capace di leggerlo bene, in cui c'è scritto che cala il costo del mutuo, quindi come incidenza della rata per l'acquisto dell'abitazione sul reddito disponibile delle famiglie, quando poi comunque abbiamo visto nello stesso rapporto che c'è sempre una certa difficoltà per accedere ai mutui, ci sono criticità, vengono chieste dalle banche sempre maggiori garanzie. Ok, adesso con una rapida carrellata cerco di rispondere a queste altre cose che mi ero appuntata. Sì. Allora, sui mutui c'è da dire che le banche erogano sempre di più, ma il numero dei contratti cala. La tassista che mi ha accompagnato questa mattina all'aeroporto di Linate, per la sua licenza per il taxi, sì, che pagherà 200.000 euro, ha dovuto, e non ha ancora finito, farsi dare la garanzia da 5 persone fra figli e parenti. Le banche erogano, ma ecco, però c'è difficoltà appunto a garantire il credito. È conveniente la rata perché i tassi fissi sono veramente bassi. La scorsa settimana per un contratto a 10 anni siamo scesi al 3,84% come TAEG, quindi come costo finito, sì, che è veramente un mutuo a tasso fisso. Ottimo. Appetibile. E non a caso, dunque, dato mutui.it, il 47% degli italiani su una banca dati di 1 milione stipula o vorrebbe stipulare il mutuo a tasso fisso perché si trattava di preventivi. Poi volevo aggiungere che a livello di provvedimenti, in effetti quest'estate, ad agosto, in un testo legato al federalismo, si parlava di abbassare l'imposta sulle compravendite di 1 punto percentuale sulla prima casa e di 2 sulla seconda casa. Un provvedimento che seguiremo, di cui però gli sviluppi non sono attuali, come per esempio invece la cedolare secca, quindi sì, questa imposta sì, sugli affitti che doveva e dovrebbe partire il 1 gennaio, ma siamo quasi a fine novembre e ancora i tempi stringono. Esatto. Ecco, aggiungo solo, se posso, scusa, velocemente cose. Uno, un consiglio a guardare al social housing, perché per esempio il dorso del Sole 24 Ore diceva che in provincia di Milano stanno arrivando 1800 oggetti, a Parma c'è un progetto famoso, la Cassa Depositi e Prestiti ha un fondo di, mi sembra, intorno ai 2 miliardi per finanziare la metà di questi progetti, a Milano in centro ci sono progetti del genere, quindi il consiglio è seguire questi progetti che sono per giovani, giovani coppie, sì, e che sono rivolti anche alla classe media. Ecco, questa è l'importanza. L'ultima cosa è sul valore dell'investimento, come diceva il primo ascoltatore. Qui volevo dire che per esempio ci sono iniziative come anche il Condotel, quindi la possibilità di acquistare appartamenti in hotel, sì, con i servizi dell'hotel, che si affacciano sul mercato italiano. A Milano ce n'è uno che garantisce il 3,6% netto, a ribadire che e sta incontrando successo, da quello che mi dicevano, a dimostrazione che il mattone in effetti per certi è un interesse sicuro. Allora, Maurizio da Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ci dica. Dunque. Velocemente, Maurizio, sì, per favore. Allora, classe media, io spendo 50.000 euro l'anno per un appartamento in affitto in centro a Milano, dove sto benissimo, non ho nessun problema. Ne ho trovato uno vicino che corrisponde esattamente in tutte le caratteristiche a quello che io vorrei, costa 3 milioni di euro. Il dubbio che mi attanaglia da mesi e mesi è: 3 milioni di euro a reddito fisso rendono 120.000 euro l'anno. Sì. Mi avanzano 70 per vivere tranquillamente e serenamente nella casa in affitto. Esatto. Allora, ognuno di voi che mi sta ascoltando lì in redazione, che cosa farebbe? Allora, io non posso chiedere a tutti i colleghi in redazione perché ci vorrebbe l'intero pomeriggio, però posso chiedere l'opinione di Alessandro Ghisolfi, che cosa farebbe al posto di questo signore. Detto molto sinceramente, io penso che resterei in affitto. detto così spassionatamente, visto che poi avrebbe a disposizione questi 70. Poi bisogna pensare appunto se ad esempio ci sono figli a cui lasciare certo. l'appartamento sicuramente molto grande, per cui si può anche pensare in futuro di frazionarlo per appunto per accontentare le esigenze della prole. Però così detta così al volo, francamente, appunto, è un po' la questione che riguarda sempre però questo segmento di mercato, cioè chi vive in centro in un bel appartamento ha disponibilità e paga anche un affitto alto, però appunto non ha neanche interesse poi probabilmente ad acquistarlo alla certo. fine. Fulvio da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Signor Fulvio? Signor Fulvio? Ha la radio accesa, tra l'altro si sente l'eco. Però non sentiamo neanche più lei. Allora, a questo punto io girerei ancora ad Alessandro Ghisolfi un SMS che ci sembrava, diciamo, interessante, perché muove proprio sul punto della provincia, che è quella che ha risentito un po' di più negli ultimi tempi del mercato, della carenza in questo mercato. Un milanese ci chiede: quale comune di provincia potrebbe essere una buona meta abitativa? Beh, quale comune di provincia? Allora, se è un milanese, quindi lavora a Milano, eccetera, probabilmente il primo ragionamento da fare è seguire anche quali sono poi qual è la sede di lavoro da raggiungere in città, quindi se è in centro, se è a nord, a sud, a est o a ovest. Io posso dire che dal punto di vista dei valori sicuramente il nord-ovest di Milano della provincia di Milano presenta dei valori più elevati rispetto al sud o rispetto alla zona est. La zona sud è quella che si è andata a sviluppare di più in questi ultimi anni, per cui c'è maggior offerta e maggior disponibilità a poter comprare anche non superando i 2100-2200 euro al metro quadrato. Noi tra l'altro abbiamo fatto recentemente proprio uno studio mettendo a confronto quello che si può acquistare, parlando poi di un bilocale, insomma di 70-80 metri quadri in una zona di periferia di una grande città piuttosto che in un comune della provincia della grande città, e risulta che mediamente se uno acquista nel comune della provincia sicuramente acquista almeno 15 metri quadri in più, quindi una stanza in più di sicuro, che insomma fa sempre comodo. Esatto. Dobbiamo salutarci perché sono le 12.55, però ci salutiamo con una nota che arriva dalla Francia che forse ci può confortare almeno in parte. Il prezzo delle case a Parigi è ai record storici, con un costo medio al metro quadro che ha superato ormai il tetto simbolico dei 7.000 euro. Questo non accade da noi, fortunatamente, anche se no. I prezzi sono scesi, ma insomma, forse non... Beh, se posso dire una cosa, se fare il raffronto con Roma, il costo medio è su intorno ai 4.000. Allora, io ringrazio Alessandro Ghisolfi, responsabile dell'ufficio studi di UBH, per essere stato con noi. Grazie a voi. Enrico Bronzo, collega del Sole 24 Ore, per essere intervenuto da Londra. A tutti voi l'augurio di una buona giornata. Salva Danaio, torna domani.